Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 8 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini con la voce un po' nasale, ma perché sono gli acciacchi della temperatura di questo periodo. È tipico in questo periodo avere quel raffreddore che gli dà sempre fastidio. Spero che non dia fastidio a voi, me lo tengo tutto io. Allora, intanto buona domenica come sempre, benvenuti al riposo del guerriero che come sempre vi parlerà di un argomento. Oggi, no, non me lo anticipo subito, lo dico tra poco. Prima vi le notizie, diciamo così, che vanno date, tipo il numero per i vostri messaggi servirà oggi in modo particolare perché c'è una sorpresa, ma ve la dico più tardi. 349-238-6666, segnatevelo, 349-238-6666. E poi il numero verde, perché anche oggi alle 11.30 si gioca col mistero in 24 minuti. Per voi, come al solito, la possibilità di portare a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, quindi in libri cartacei o elettronici, ammesso che riusciate a risolvere il mistero, che può essere una notizia della settimana oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente famoso. Per arrivare alla soluzione avrete degli indizi musicali da ascoltare. Il primo indizio è questo. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. Straordinaria canzone, questo è il primo indizio. Il numero verde per prenotarvi, potete farlo da adesso, 800 24 00 24. Oggi Riposo del Guerriero si occuperà di karma, di carisma e di vocazione. Ci sono persone e personaggi che ci piacciono in modo particolare perché vorremmo essere come loro, oppure sentiamo la vocazione di dedicarci a qualcosa che ci piace in modo particolare o che ci è vicina per qualche motivo. Di questo parleremo di persone lontane dai riflettori, ma che fanno qualcosa di particolarmente interessante, che danno un contributo vivo alla loro vita e anche alla nostra grazie a quello che fanno. Cercheremo di capire anche che cos'è il karma da un punto di vista anche lessicale, e poi insomma ci addentreremo nei meandri della conoscenza di personaggi particolarmente curiosi. Anche voi, quindi, se avete qualche vocazione o pensate qualcosa del vostro karma o in qualche modo sentite di avere particolare carisma, fatecelo sapere con un messaggio oppure sulla nostra pagina di Facebook Il Riposo del Guerriero. E per cominciare, ovviamente parlando di karma, si torna indietro nel tempo. Culture Club di un bel po' di anni fa, tra l'altro Boy George, il leader, lo ricorderete sicuramente. Non so quale possa essere il suo karma, la sua vocazione sicuramente era quella di cantare e comporre, però recentemente, siccome poi le cose non sono andate benissimo, insomma sono diventati particolarmente popolari, poi la popolarità come al solito così può svanire, ecco, non è che duri per sempre, a volte sì, ma ahimè spesso non è così. E comunque, siccome è una persona che si è sempre dedicata anche ad altro, adesso pare che venda magliette create da lui, ovviamente, al mercatino di Londra, che voglio dire è una straordinaria professione anche quella. Non vedo perché quando si è sotto i riflettori si è qualcuno, quando non lo si è si perde di importanza. Non è assolutamente così. Chiara Bera di Argentina, buona domenica, grazie. Buongiorno, grazie a te, buona domenica. Allora, cominciamo con Chiara per il semplice fatto che è stata proprio lei con il suo libro a darmi lo spunto per la puntata di oggi. È appena stato pubblicato da Mondadori, Di profilo, ritratti di italiani lontani dai riflettori, e noi ci sposteremo proprio da quelli. Tra pochissimo, Chiara, aggiornamenti sul traffico e poi sono con te. Il riposo del guerriero. Vice direttore della stampa che Rabera di Argentine cura anche da diversi anni una rubrica pubblicata ogni sabato, si intitola Di profilo, pubblicato sulla stampa ovviamente. Chiara, com'è che ti è venuta quest'idea? Parlare delle persone in qualche modo stando, persone che forse sono lontane dai riflettori. Dunque, intanto non sono più vice direttore della stampa. Scusa? Ma parlando col direttore, sì? Mario Calabresi, 2 anni fa ho avuto l'idea di fare questa che è una sorta di mio viaggio in Italia, settimana dopo settimana. Il libro raccoglie i primi 61 personaggi, ma in realtà ormai con ieri sono arrivata a 96. Allora, l'idea, dopo tanti anni, mi sono occupata, come in vari giornali e televisioni, della cronaca, dei personaggi di politica, era di spostare per l'appunto i riflettori, dando visibilità a delle persone che danno, lasciamelo dire oggi, questa domenica, dopo quello che è successo ieri a Roma, sì, anche dei riferimenti ai giovani, la dimostrazione che ce la si può fare nonostante la crisi. E soprattutto, devo dire, poi i libri rimangono pubblicati, quindi non lo dico a casa, basta comprare il mio libro per vedere che nella prefazione che ho scritto questa primavera, scusa se leggo la frase, come no, racconto da quella spirale di violenza, ossia dagli anni 70, e autodistruzione, per fortuna siamo usciti, ma oggi vedo troppi segnali di intolleranza e di mancanza di comprensione delle ragioni degli altri per non temere che il sacrificio di tante persone sia stato vano. Allora, per chi come me ha fatto la cronista negli anni del terrorismo, delle stragi, ti assicuro, questa non è una mattina, come anche leggendo le analisi sui giornali di quello che è successo ieri, non è una mattina come gli altri. Ma se noi anche come giornalisti continuiamo a dare spazio soltanto a dei modelli francamente imbarazzanti, non rimane altro, e qua è uscito il mio direttore Mario Calabresi, il suo editoriale di oggi, ai giovani di pensare che non c'è futuro, quindi non si può altro che o sprofondare in empatia o nel così ribellismo e violenza fine a se stessi. Ecco, io concordo appieno, anche perché quelli che sono i modelli in qualche modo sono sempre dei riferimenti importanti, quindi è fondamentale quello che hai appena detto. Fra l'altro, io leggevo proprio il Di profilo di ieri e tu, intervistando l'immobiliarista Manfredi Catella, che appunto, come dici anche tu, visto questo momento dei furbetti del quartierino, insomma, potrebbe anche essere lui messo nella mischia, no? degli immobiliaristi senza scrupoli. Però c'è la chiusura proprio del tuo articolo, dove alla domanda anche lei è attirato dalla politica, tu chiedi a Manfredi Catella, la sua risposta è: lavoro sul territorio, quindi inevitabilmente su un bene pubblico. Anche per questo sento come una responsabilità lavorare bene, è il mio modo di dare un contributo all'immagine del nostro paese. E quindi questo credo che dica e confermi quello che ci ha appena raccontato. Catella ha 43 anni, no? Ovviamente la parola immobiliarista, con quello che è successo, tralascio poi tutte le vicende giudiziarie, uno è prevenuto, però questo paese ha bisogno di un grande cambiamento e anche di persone che si mettano in gioco. Poi Catella, che è quello che ieri ha reso uno dei suoi palazzi in costruzione più alto d'Italia, 230 metri, esatto, sì. Chi era a Milano ha visto l'elicottero girare la regione, verrà giudicato per quello che fa, piace o non piace, certamente. Poi voglio dire, è un aspetto, sappiamo benissimo che a Milano mancano moltissime case, ritorno ai giovani, soprattutto per i giovani, Milano è una città di studenti, molti fuori sede, e hanno rispetto alla mia generazione problemi drammatici di come trovare casa, forse anche per questo che io appunto, come dicevo prima, i miei ritratti non sono mai dedicati ai politici, ma non per questa così generalizzazione anticasta, perché anche qua bisogna imparare a distinguere, a parte che le caste ci sono in molte professioni, ma perché veramente penso che c'è una società civile, per esempio fatta di mondo del volontariato, di giovani che si mettono in gioco. Io lavoro molto sulla classe dirigente di questo paese da anni. Per anni ho raccontato il declino di questa classe dirigente. Un po' questo mio libro nasce nell'autunno del 2008, quando da Torino, dalla sede, mi chiamano, era il momento del crollo delle borse, e mi dicono, sai come avviene nei quotidiani, corri, vai in Piazza d'Affari, descrivi cosa sta avvenendo in questo momento. Io sto vedendo un gruppo di amministratori delegati fuori da giovani, tra l'altro fuori da Mediobanca piuttosto che da Unicredito, proprio la sensazione fisica che in quel momento di nuovo stava cambiando il mondo, e quindi bisogna però ricostruire, perché se siamo contro tutti, tra l'altro la mia generazione, che è stata sicuramente più fortunata di quella dei miei genitori, che ha vissuto due guerre, figuriamoci una guerra, figuriamoci dei nonni che hanno vissuto due guerre, cioè comunque abbiamo il dovere verso i nostri figli di raccontare anche un'altra realtà. Cioè, per, ti faccio un esempio, c'è un grande produttore di televisivo e di reality che si chiama Gori. Io racconto suo fratello, che è un grandissimo medico, che ha lavorato per anni con il professor Maroni sull'AIDS, e Andrea Gori, e peraltro anche Giorgio fa benissimo il suo mestiere, però voglio dire, c'è anche un altro lato nella storia, e come ha visibilità un fratello Gori, penso che anche il professor Gori ha diritto e ha, cioè, dimostra che ce la si può fare. Certo, è così tutto il tuo libro, francamente. E, per esempio, io avevo preso così, tra i tanti nomi, mi aveva colpito, ma semplicemente per un interesse personale, se vuoi, la vicenda di Rodrigo Morganti. Vuoi raccontarla, sì, tu? Rodrigo è, di nuovo, si parte da una situazione, se vuoi, certamente di privilegio, sì, sociale, perché certo, Morganti sono poco conosciuti oggi, perché questo è un paese con poca memoria. Sono stati, penso, i costruttori, la prima autostrada con pedaggio al mondo è stata nel 1924, la Milano-Barese, costruita dai Morganti, famiglia che poi ha ricostruito dopo la guerra a gratis la Scala con altre, quando la borghesia era appunto generosa, aveva senso civico. Semplicemente Rodrigo racconta la sua storia, lui ha scoperto, studiava, andava all'università, ha scoperto gli artisti di piazza, affascinato da questo mondo, ha imparato le tecniche da clown, ma non lo fa solo per spettacolo, è stato il primo dottor clown che è entrato negli ospedali italiani a raccontare, a far regalare un sorriso ai dei bambini malati, e poi va in Africa, insomma, ma di giovani generosi, e che mi fanno molto tenerezza, perché non si abbandonano appunto a questo cinismo, se vuoi, al lamento, peraltro molto giustificato di tanti giovani oggi, che sicuramente non avranno un futuro facile, però si mette in gioco, in fondo poteva fare il privilegiato, invece certo, come tanti che ovviamente non conosco, per cui i miei personaggi sono anche un po' un simbolo, no? Sì. Di tanti altri, sono la punta di una piramide, l'iceberg che non si vede purtroppo. Chiara, riflettevo su una cosa, l'essere privilegiati, no? Non è magari proprio una di quelle molle che ti fa venire voglia di fare qualcosa, perché è troppo facile fare l'adagiato, no? E invece magari chi parte senza nulla ha più voglia di un riscatto, e quindi cerca magari strade più corte, più brevi, per arricchirsi o in qualche modo diventare famosi subito, ecco. Non c'è dubbio, purtroppo la storia anche dell'industria italiana, si vede che raramente arriva alla terza, non parliamo della quarta generazione, molte volte già alla fine della prima si sfrangono, la seconda sono appunto dei bamboccioni. Sì. Però è anche vero che secondo me dipende anche dai valori che dà ai suoi figli. Se il privilegio è significa i soldi, così, se invece è il poter incidere, fare qualcosa e avere senso di responsabilità, se vuoi un po' come erano gli industriali di una volta, ma ce ne sono tanti esempi oggi. Due settimane fa ero a Alba per presentare il mio libro, quello è un territorio magnifico, con me mi ha fatto veramente l'onore di presentarlo alla professoressa Elsa Fornero, che è la testa della Fondazione Intesa San Paolo, e ragionavamo sul fatto, eravamo ospiti da una grande famiglia di vinicoltori che sono i Ceretto, di prima generazione, come con questa forza, con questo radicamento alla loro terra, alle loro origini, una zona, se vuoi, povera, non ricca di questa Italia, è diventata un gioiello, tra l'altro non copiabile dai paesi asiatici. Ecco, questa Italia secondo me va raccontata. Scusa se sono assolutamente concorde con te, e infatti il tuo libro mi è piaciuto subito, no? Lo sai, avresti già dovuto essere il nostro ospite, poi purtroppo non è successo per colpa nostra, e quindi ti ringrazio per essere qui con noi oggi. Io ti lascio con un'ultima domanda, siccome l'argomento di oggi è proprio karma, carisma e vocazione, no? In qualche modo, c'è uno fra i personaggi che racconti nel libro che in qualche modo ti sarebbe piaciuto essere, o nel o nella quale ti vedi? Ma guarda, il più affascinante e più anziano è il professor Guido Calabresi, diciamo l'italiano che è arrivato a più alto livello negli Stati Uniti, anche di lui i giovani sanno poco. Ha dovuto scappare con la sua famiglia dall'Italia durante il fascismo, sua madre era Bianca Finzi-Contini del famoso libro, e ricomincia fino ad arrivare a essere nominato da Clinton, grande giudice della Corte Suprema americana, non solo, è stato per anni il rettore di Yale, un grande giurista, un tenero signore anziano, al quale gli ho chiesto ma perché non scrive un libro sulla sua vita, e lui mi ha risposto perché temo gli esibizionismi, e io trovo stupendo rispetto a tanta gente che si parla addosso, è inutile che ti faccia degli esempi perché li abbiamo sott'occhio spesso, che non hanno veramente nulla da dire, che sarebbe meglio che, a parte scrivere libri, che comunque è sempre un bene scrivere e leggere, ma che compaiono troppo, e in questa la televisione una, secondo me, una grande responsabilità. Infatti, forse a volte chi parla troppo spesso non ha nulla da dire, ma questo lo sappiamo, e certo non siamo noi a dirlo. Grazie Chiara Bera di Argentina, grazie davvero. Io vi ricordo il libro Di profilo, i tratti di italiani lontani dai riflettori. Grazie ancora Chiara, buona domenica. E tra i messaggi che sono arrivati, me ne leggo uno prima della pubblicità, Antonio Gatto ci scrive: sono un elettricista che per passione scrive frasi, aforismi e poesie. In rete vengono lette mediamente da circa 50.000 persone al giorno e sono sempre in aumento. Non ho mai scritto un libro né guadagnato un centesimo, ma l'emozione che condivido ogni giorno con chi mi legge e mi scrive non ha prezzo, ed è questo che vogliamo. Il riposo del guerriero. Io il mio karma deve avergli fatto qualcosa di veramente grave, scrive qualcuno non firmato in un sms, perché ogni volta che compro delle azioni ci rimetto delle barcate di soldi. Magari è così. E il numero per i vostri sms 349-238-6666. Oggi il riposo del guerriero si occupa di karma, carisma e vocazione, e per questo facciamo un tuffo nel passato. Stefania Bonura, ciao, buona domenica. Buongiorno, ciao. Allora, Stefania ha appena pubblicato un libro intitolato Le 101 donne più malvagie della storia. Storia, eroine nere, sciagurate, perdute e diaboliche. Beh, il titolo è così, poi in realtà non è vero, cioè non sono tutte così quelle che hai scelto, a volte sono state costrette magari a esserlo. Sì, costrette potrebbe esserlo in tempi in cui gli spazi lasciati alle donne insomma erano davvero pochi, per cui molte donne si sono accaparrati insomma questi spazi anche inoltrandosi in territori un po' scuri, ecco, infatti, utilizzando strumenti insomma non proprio leciti, ecco, è vero, però a quel tempo devo dire che l'illecito francamente per i potenti spesso era lecito. Assolutamente. Però Stefania, è vero anche che questo libro in qualche modo ridà luce a donne che magari erano un po' viste nell'oscurità, nel senso che le rivaluta, perché quando tu inserisci appunto un gesto efferato in una situazione storica, allora capisci che forse aveva anche le sue ragioni per essere così. Assolutamente sì. In effetti la cosa interessante quando ho iniziato a scrivere questo libro ho avuto qualche problema, perché il solo fatto di inserire in una lista nera alcune donne che insomma soprattutto studiando, leggendo su di loro emergevano questi profili così interessanti, così affascinanti, per cui mi ricordo che chiamai la mia editor e dissi: senti, io proprio a parlare male delle donne non ce la faccio e in realtà mi si stava aprendo un panorama molto più interessante, cioè quello di esplorare non tutte le donne che io consideravo malvagie, oppure stabilendo un criterio o addirittura facendo cercando una verità, ma tutte le donne che sono state etichettate, esatto, malvagie dalla storia. Questo era molto più interessante, cercare di capire perché. E quindi insomma ho fatto tutto un panorama storico sia sulle donne al potere, perché infatti ho diviso il libro in tre sezioni separate, cioè una prima parte donne e potere, quindi tutte le regine, che poi per lo più sono reggenti, perché fino diciamo all'età moderna le donne al potere ci arrivavano per parentela, no? Quindi l'esempio tipico è Agrippina, che era figlia, sorella, nipote, moglie e madre di imperatori, quindi c'è relazione di parentela con il potere. E poi un'altra sezione più da cronaca, anche se ho iniziato da Locusta, che era l'avvelenatrice dell'antica Roma, e quindi donne e crimine. E infine una terza parte l'ho lasciata un po' alla fiction in senso generico, cioè partendo dalla letteratura al cinema, al fumetto, anche chiaramente percorrendo un po' delle figure mitologiche come Medea o la Circe, insomma. Quindi ho fatto un panorama completo proprio per capire anche come è mutata nel tempo la percezione della malvagità femminile. Quindi questo era l'aspetto che mi interessava di più, ed è chiaro che moltissimi personaggi in realtà insomma malvagi non lo sono stati, insomma, o quantomeno sono stati riabilitati in seguito, sono stati trattati male soprattutto dai loro contemporanei e poi insomma riabilitati in un secondo tempo, non sempre, una certa immagine negativa è rimasta comunque su alcune di loro. Ecco, ma anche perché in fondo c'è anche un po' un certo fascino, no, in questo, quindi uno non vorrebbe mai pensare a una Lucrezia Borgia, faccio un esempio, non a caso, pura in perché no, perché altrimenti, ma non perché, non, niente contro di lei, però è interessante, il personaggio è affascinante. Fuggite i Borgia o giovani, ove Lucrezia è morte. E adesso tra l'altro la fiction ci racconta dei Borgia, ma forse tutto parte da Alessandro VI, il Papa, ovvero Rodrigo Borgia, che credo che l'abbia usata. Parte, ecco, anche questo, io ho cercato di raccogliere profili di donne che non fossero necessariamente vittime, o quantomeno questa figura passiva, no, che riecheggia sempre anche nella malvagità in quanto vittima della sua natura debole. Ora, sicuramente Lucrezia è stata una pedina nello scacchiere politico dei Borgia, è stata data prima a Giovanni Sforza, poi Alfonso d'Aragone, infine è approdata alla corte estense, e sempre per questi maneggi insomma dei Borgia per le loro alleanze. Però ecco, anche Lucrezia Borgia ha diverse sfumature, perché poi a me interessava proprio questo, ridare un po' di complessità alla donna, no? Cioè, cercare di tracciarla dalle sue zone più luminose a quelle più oscure. Lucrezia sicuramente ha vissuto la sua epoca, ha vissuto la corte libertina dei Borgia, la corte dei Borgia che inventò la famosa cantarella, che era questo veleno che insomma ha fatto fuori una serie di nemici dei Borgia. Quello che immaginiamo sempre si nasconda nell'anello, no? Esatto, questa è l'immagine, sì, l'immagine chiaramente leggendaria. leggendaria è quella di Lucrezia Borgia, questa donna che con le arti della seduzione avvicinava i commensali per versare il veleno da questo anello che indossava, l'immagine insomma prevalente di Lucrezia. In realtà Lucrezia, la cosa interessante è che Lucrezia passa da un'immagine molto scura, cioè questa costruita poi ad arte da Bucart, da Guicciardini stesso, che erano poi dei nemici dei Borgia, ma dallo stesso Giovanni Sforza, cioè il suo primo marito, che viene costretto a dichiarare la sua impotenza per farli separare fondamentalmente, no? Quindi per poter poi far risposare Lucrezia con Alfonso d'Aragona. Per cui sono tutte voci che sono state create ad arte, anche quelle delle orge, del rapporto incestuoso con Alessandro VI, e fino ad arrivare poi al terzo matrimonio, quando lei approda alla corte estense, diventa una virtuosissima. Cioè abbiamo una rappresentazione completamente opposta, quella donna, la donna contrita, stretta da un cilicio in convento e comunque mecenate e sensibile all'arte, quindi circondata da questi poeti che la osannavano, la adoravano, la rappresentavano come una sorta di santa. Per cui è molto interessante, no? Vedere tutte le sfumature di cui è composto questo personaggio così ambiguo. Infatti questo è il bello del tuo libro, proprio questo, no? Che rileggi in una chiave completamente nuova persone che insomma si conoscono poco e se non ci si informa a sufficienza, e ovviamente l'immagine è quella che abbiamo detto all'inizio. Senti, tra le donne io ne ho scelta un'altra semplicemente perché molti la bevono tutti i giorni, nel senso che hai capito che parlo del Bloody Mary, quel famoso cocktail fatto col succo di pomodoro che io ho detesto perché non mi piace proprio, ma ci sono invece persone che lo adorano. Si chiama Bloody Mary, tradotto in italiano possiamo dire la Mary sanguinosa, e si riferisce a Maria prima Tudor. Vuoi raccontarci la sua storia? Perché è stata così sanguinosa? Allora, la sua storia è molto interessante. Lei è figlia del famoso Enrico VIII, quello che è famoso per lo scisma della Chiesa anglicana, lo scisma della Chiesa di Roma, quello di Anna Bolena. Ecco, Maria prima Tudor è la sua prima figlia, la figlia legittima, figlia di Caterina d'Aragona, che quindi improvvisamente viene estromessa da tutti i privilegi, nonché dal trono, almeno all'inizio, poi viene praticamente dopo la morte di Anna Bolena viene ripresa, cioè viene nuovamente le vengono ridati dei diritti al trono, anche se dopo in successione lei sale dopo il figlio che Enrico VIII insomma avrà con un'altra regina. E comunque viene completamente estromessa da tutti questi privilegi con l'arrivo di Anna Bolena a corte, per cui insomma sicuramente cova un rancore, anche perché viene allontanata dalla madre, la madre viene rispedita in Spagna, per cui viene completamente estromessa anche dagli affetti. Isolata quindi. Isolata, sì. Quindi immaginiamo questa donna che sicuramente ha un'infanzia molto difficile da questo punto di vista, ed è una spagnola a tutti gli effetti, in un'epoca in cui divampano le guerre di religione. E per cui lei, quando sale per un breve periodo insomma al trono di Inghilterra, ha una missione. La missione è quella di ripristinare il cattolicesimo in Inghilterra, per cui fa strage di protestanti, e per questo viene chiamata appunto Maria la Sanguinaria, Bloody Mary. E il succo del pomodoro insomma rievoca appunto quel sangue versato, ecco. È molto interessante questa figura, sì, perché dietro questo gesto è vero che intravediamo la regina che ha il suo progetto, un po' come Isabella di Castiglia, che aveva il suo progetto di unificare politicamente, religiosamente ed etnicamente la Spagna, e quindi crea anche il tribunale dell'Inquisizione, eccetera, ma c'è anche una storia personale, una vendetta molto personale dietro, quindi si riesce quasi a umanizzarla, no? Questa figura. Infatti l'impressione è che ci sia sempre una ragione anche emotiva che spinge, certo, queste donne che tu racconti a determinati gesti. Stefania, fra le tante donne che hai descritto, qual è quella in cui in qualche modo ti sei rivista? Se ti sei rivista, magari non in un modo così sanguinoso, però magari come pensiero, ecco, o come atteggiamento. Come pensiero come atteggiamento. Allora, diciamo che ci sono, posso prendere degli aspetti da tante donne. Sì. Sei l'insieme di quali allora? Ecco. Sì, sicuramente sono stata molto affascinata dalle avvelenatrici, perché c'è tutto un mondo dietro queste donne, c'è proprio un modo di operare, c'è una lucidità. C'è sì, infatti, ma questa è anche la realtà, per quanto riguarda i delitti, le donne non amano affatto le armi, ma preferiscono invece appunto i veleni o i sistemi, insomma, fisicamente non così atroci, ecco. Sì. Per cui. Diciamo che c'è anche un motivo pratico dietro, nel senso che sicuramente anche per un discorso di forza fisica e non solo, cioè il veleno è stato il più grande amico della donna, almeno della donna assassina, diciamo, fino a una certa epoca, parliamo dei fino ai primi del fino a tutto l'Ottocento, ecco, sicuramente era molto più usato rispetto a oggi. Oggi ci sono molti altri strumenti di cui si avvale la donna, ma diciamo rientriamo anche in un campo simile, tipo anche dei medicinali potrebbero rientrare in un campo molto certo. simile a quello del veleno, no? Per cui se venite avvicinati a Stefania Bonura state attenti a quello che bevete. Oddio, no. No. Però è un mondo molto affascinante perché fa luce su anche un atteggiamento femminile che di lucidità, no? Di consapevolezza delle proprie azioni, di far comprendere, soprattutto queste donne che utilizzavano il veleno, lo facevano per raggiungere degli scopi molto pratici, tipo ereditare oppure risposarsi in un'epoca in cui magari il divorzio non esisteva. Sì, a volte in cui la soluzione era solo quella, perché legalmente, diciamo così, non c'era modo, perché no, sappiamo no. come funzionava. No. Stefania, io ti ringrazio e vi ricordo il titolo, il libro è Le 101 donne più malvagie della storia, eroine nere, sciagurate, perdute e diaboliche, ma noi diciamo anche e ritrovate, io aggiungo questo. Grazie Stefania, buona domenica, ciao. Tra pochissimo invece la nostra glottologa sarà pronta a raccontarci da dove arrivano karma, carisma e queste parole che usiamo, ma perché le diciamo? Il riposo del guerriero. La nostra glottologa Francesca Dragotto, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a te Stefano. Karma con la K o con la C? Dobbiamo scriverlo correttamente con la K. K, sì. Esattamente. Sì, anche se capiterà senz'altro di trovarlo anche nella variante con K, che intendo C, perché una volta che una parola si integra naturalmente tende ad essere anche scritta con la lettera che corrisponde al suono che ci riconosciamo, quindi allo stesso modo in cui scriviamo cane con la C, scriveremo anche karma con la C, però la forma corretta è con la K. Ecco la K. Di un prestito. Da dove arriva? Allora, arriva dall'indiano, quindi arriva in particolar modo dal sanscrito, che è la variante classica della lingua indiana, e etimologicamente significa opera. Perché il karma è ciò che abbiamo fatto in una vita precedente e che ci portiamo dietro nella vita attuale. Infatti, guardando le tre parole chiave della vostra puntata di oggi, mi verrebbe da commentare che fatica, perché in un caso si è perché si è stati il karma, sì. Nell'altro caso si è perché si è ricevuto, è il caso del carisma, vedremo, o carisma come ormai si dice. Nel terzo caso, quello della vocazione, si è perché si è votati ad essere e perché si è, oppure perché si è stati chiamati ad assolvere una certa funzione. Non le ho scelte a caso le tre parole. È una fatica perché l'identità in tutto ciò deve barcamenarsi tra passato. Certo, quello futuro. Che sei stato, quello che vorresti essere e quello che senti di essere, esattamente sì. Le tre cose che oggi vorremmo raccontare. Sì. Senti, carisma, quindi carisma dovremmo dire. Sì, dovremmo dire carisma perché si tratta di una parola greca. Se diciamo carisma è perché l'abbiamo ricevuta attraverso la mediazione del latino, che segue regole di accentazioni differenti. Però l'etimo è greco, significa grazia, dono divino, e è connesso con un verbo che a sua volta ha il punto di partenza in una parola molto bella che appunto è caris, la grazia, la leggiadria, l'incanto, che soltanto con il cristianesimo è passato ad indicare la grazia che viene concessa da Dio a pochi, però per il bene della comunità. Quindi non si tratta di una grazia ricevuta per il singolo, per il riscatto del singolo, perché in quel caso si parlerebbe di grazia santificante, e la grazia santificante è anch'essa ricevuta da ogni credente. Però qui parliamo di un qualcosa che il singolo ha in funzione della collettività. Lo troviamo attestato nel latino ecclesiastico, e poi attraverso la mediazione del latino medievale lo ritroviamo anche nell'italiano contemporaneo. Ecco, invece vocazione. Vocazione è una parola latina già classica, vocatio, l'italiano la forma a partire dall'accusativo vocationem con caduta della nasale, e come ci suggerisce l'assonanza con vocabolo, con avvocato, ha a che fare con l'idea di chiamata, quindi si è così perché si è chiamati ad essere così. La vocazione per eccellenza è la chiamata da parte di Dio ad abbracciare la vita sacerdotale. Anche in questo caso la mediazione forte avviene attraverso il latino ecclesiastico. In italiano la troviamo attestato per la prima volta, siamo agli inizi del 300. E soltanto successivamente si arriva a un'accezione, quella che poi invece è più diffusa oggi nel lessico dell'uso, che è quella di inclinazione, attitudine verso una professione, verso uno stile di vita. È interessante notare che l'inglese, che fino a questo vocation, che fino a questo punto tutto quello che ho detto finora per italiano vocazione potrebbe dirsi parimenti per l'inglese, però l'inglese fa ancora un passo in avanti, perché aggiunge un ulteriore tassello ottenuto per traslato, quindi ragionando sul termine stesso, ai significati che abbiamo visto, perché se si è votati a svolgere una professione, allora vocation può anche essere la professione. Allora, spogliando un dizionario inglese, sì, o un dizionario relativo alla lingua inglese, ci accorgeremo di una terza possibilità di tradurre vocation, che è proprio quella della professione di cui si sta parlando. Ecco, quindi dopo quello che hai detto, Francesca, abbiamo capito che la tua vocazione è proprio il mestiere che hai scelto. Brava. Non so cosa avresti voluto fare da piccola, non ho idea. Cosa avresti... Da piccola ho imparato a parlare e a contare molto presto. Volevo fare la cassiera perché ero convinta che la cassiera portasse via tutto l'incasso. È comunque un bel modo di vedere le cose, voglio dire. Strano. Sì, devo... Poi devo dire che la passione adulta, comunque la passione degli ultimi 20 anni, è coincisa con le parole e soprattutto con lo studio della loro storia. Ecco, bisogna capire qual è il tuo karma allora, perché poter pensare di fare la cassiera per rubare l'incasso è interessante, come lavorare in banca e portare via tutto quello che sia sotto le mani, no? Sarebbe la stessa cosa. Sarebbe interessante. Faremo questa analisi, Francesca. Grazie intanto. Grazie, ciao, a voi, ciao. Buona domenica, ciao. Riccardo Vincenti, ciao, buona domenica. Sì, buongiorno. Allora, Riccardo è consigliere delegato di un'azienda specializzata in pompe, valvole e sistemi innovativi per il trasporto dei fluidi, però avrebbe voluto fare tutt'altro, addirittura l'archeologo, nel senso, sì, proprio lei, che è una tua passione, anche il chitarrista rock. Sì, infatti, potrei dire che la passione dell'archeologo lo potrei definire un sogno abbandonato, perché oramai è irrealizzabile, ma che può nascere da quando da bambino leggevo quasi di nascosto un'enciclopedia di mio fratello maggiore, Conoscere, e ero affascinato completamente da temi legati alla storia antica e alla sua riscoperta attraverso scavi archeologici, templi antichi e strani riti pagani. Poi anni dopo, durante un viaggio in Egitto, rimasi sconvolto a scoprire, quasi abbandonati su un terreno, migliaia di reperti ritrovati che non potevano essere catalogati neanche archiviati per mancanza di fondi. E poi mi dicevano che la maggior parte dei siti erano completamente inesplorati e quindi c'era ancora tantissimo da riscoprire. Allora da lì ho cominciato a pensare, mi piacerebbe poter essere tra quelli che scavano tra le sabbie del deserto e trovano, e magari ritrovano qualcosa. L'arca perduta, magari, sai, perché l'arca perduta, perché anche poi i film ci danno ancora più voglia di essere quell'eroe. Senti Riccardo, ma così tu hai mai avuto la sensazione magari di aver avuto un'altra vita nel passato e quindi di essere stato uno di loro? Ogni tanto ci penso, diciamo che mi piacerebbe, diciamo è la mia parte un po' più così, ecco, infantile, che forse mi fa rivivere ogni tanto queste cose. Dovresti darti alla regressione, esatto. E quindi capire se nella tua vita passata magari eri un faraone o magari uno schiavo a costruire piramidi, non lo so. Uno scriva. È più probabile. Senti, invece il chitarrista lo stai facendo a questo punto. Il chitarrista lo posso definire un sogno ritrovato, perché anche lì, sempre grazie al fratello maggiore, da bambino giravano per casa i famosi doppi LP tipo Woodstock, White Album, The Beatles, Lou Reed, eccetera. Quando lui era fuori io me li sentivo in casa, però non avevo mai iniziato a suonare, non mi ero mai deciso di cominciare. Poi da qualche anno ho deciso di acquistarmi una Fender Stratocaster. E quindi come cominciare a toccare quel sogno. Ecco, quanti anni hai tu, Riccardo? 50. Ah, 50 anni, dalla voce sembra molto più giovane, per la verità. Quindi, voglio dire, c'è sempre tempo, no? Sai, una volta a 50 anni si diceva un uomo di mezza età, e quando uno sente questa frase già si deprime. In realtà poi la tua prossima vita, parliamo di quella futura, quindi a questo punto della vocazione, sarà il chitarrista e lascerai quello che stai facendo. Ma sì, non lo so. Dai, insomma, si possono fare entrambe le cose. Assolutamente sì, grazie al cielo. Seguiamo proprio quella che è la nostra vocazione. Grazie Riccardo, grazie, buona domenica. Ciao, grazie. Ciao, karma, carisma e vocazione tra pochissimo nel riposo del guerriero. Il riposo del guerriero. Le 11:06, ancora buona domenica, era Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Oggi stiamo parlando di karma, di vocazione, di carisma, personaggi che in qualche modo ci affascinano perché vorremmo essere come loro, o semplicemente perché ci incuriosiscono, oppure quello che noi facciamo nella vita per dare il nostro contributo, perché lo sentiamo. Ecco, questa è la vocazione. Intanto, se lo sentite, potete anche prenotarvi per il gioco più tardi, il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, il numero verde, potete prenotarvi 800 24 00 24. E adesso è il momento di parlare con Giampaolo Gasparri, che insieme a Pia Vercellesi ha scritto Le tracce del karma, come riconoscerle nell'attuale incarnazione. Giampaolo, buona domenica. Buongiorno e buona domenica a tutti quanti. Allora la domanda è proprio quella: come riconoscere nell'attuale incarnazione? Perché leggo un messaggio, e non voglio prendere in giro nessuno, ma è così un messaggio forse un po' divertito, no? Anna scrive: nella mia vita precedente probabilmente ero una gallina, perché mi piace tanto il mais. E poi lei fa nel senso che com'è che si può cioè da un atteggiamento, da qualcosa dalla quale siamo attratti, è possibile riconoscere il karma o assolutamente non c'entra nulla tutto questo, Giampaolo? No, direi che più che essere un... innanzitutto è un segnale questo, evidentemente. Anche questo è un segnale. Noi il lavoro l'abbiamo impostato su una ricerca simbolica da alcuni anni, e sempre per vedere quali sono quegli elementi che ci possono portare a degli altri elementi, che è proprio il concetto del simbolo stesso. Noi spesso iniziamo le nostre vite come se partissimo per un viaggio con una valigia, senza sapere bene quello che abbiamo dentro, e quindi la nostra, diciamo così, ricerca è stata proprio quella di vedere che cosa abbiamo dentro, che cosa ci stiamo portando, che cosa abbiamo preparato per questo nostro viaggio, e quindi la nostra ricerca ha cercato di unire sia la visione orientale da cui è partito il concetto di karma e quindi delle azioni che noi abbiamo compiuto, con anche le possibilità psicologiche, quindi un collegamento anche con certi aspetti psicologici, psicanalitici direi meglio, perché ci siamo riferiti soprattutto a Jung, di che cosa noi disponiamo per poter vivere questa nostra vita. Il corpo, come sappiamo, ha una sua durata, no? Come tutte le macchine a un certo punto vengono sostituite, mentre invece la nostra parte spirituale continua. Ecco, è chiaro che gli scienziati ovviamente sono molto lontani dall'immaginare questa eventualità, ovvero che la coscienza possa in qualche modo entrare in un altro corpo mortale. Però insomma, ipotizziamo che... Fino a un certo punto, perché se noi pensiamo al concetto di DNA, sì. Il concetto di DNA non è nient'altro che la visione scientifica del karma sostanzialmente, semplicemente si occupa solo della parte fisica, cioè dall'analisi del DNA, soprattutto con gli ultimi studi ed evoluzioni che sono state fatte, si è in grado ad esempio di prevedere in una qualche maniera quelle che saranno le malattie alle quali noi siamo maggiormente esposti, piuttosto che se siamo forti, se siamo deboli e così via. Però tutto questo sempre da un punto di vista materiale, cioè corporeo, mentre invece quella che è la nostra parte energetica, se non vogliamo chiamarla spirituale, noi non disponiamo di segnali in quella che è la ricerca occidentale. E questo è stato un po' ciò che ci ha spinto da quando abbiamo fondato questa nostra associazione, Laura Institute, in cui abbiamo voluto proprio andare a scandagliare quelli che sono gli aspetti energetici che vanno a condizionare poi la nostra vita, perché non sono nient'altro che energie. Ecco, qui il karma a questo punto in qualche modo ci condiziona proprio, e quindi è così, e non possiamo cambiare le cose, o una volta conosciuto e essendone consapevoli possiamo cambiare le cose? Possiamo cambiarle. Diciamo che senza approfondire troppo quello che sono le varie visioni, soprattutto in ambito indiano, legate alla reincarnazione, per le quali, voglio dire, in alcuni casi è così come dicevi tu adesso, in effetti quello che a noi interessa maggiormente sono proprio le chance, le possibilità anche che noi abbiamo di poter cambiare. Cioè ogni nostra vita non è nient'altro che un tratto, no? Nell'ambito di un percorso eterno sostanzialmente. Ogni volta che noi nasciamo, che cosa facciamo? Ci portiamo dietro il risultato, la risultante, diciamo, di quelle che sono state le azioni della nostra vita precedente. Mi diceva un amico a Nuova Delhi, guarda, il karma è in pratica come quando tu cambi la banca, non è che il tuo estratto conto cambia se cambi la banca. Ah no, peccato. No, purtroppo no. Per cui tu, se sei in passivo, tornerai passivo in un'altra banca, e se sei in attivo lo sarai anche in un'altra banca. Ma quello è soltanto un punto di partenza, perché lì la cosa bella è la possibilità di cambiarlo. Cioè ogni volta che noi viviamo, ogni volta che noi abbiamo questo percorso, noi possiamo comportarci in un modo piuttosto che in un altro. Sentivo prima che appunto l'etimologia della parola è proprio quello del fare, no? Dell'azione. Sì. E quindi se io compio delle azioni che possono alleggerire, come si dice in gergo, il mio karma poi dopo sarà alleggerito. Allora adesso mi viene in mente, ecco Giampaolo, al di là di crederci o non crederci, certo, ma non è questa la discussione ovviamente, certo. Allora è vero quando, così un po' superficialmente, no, diciamo faccio del bene perché lo faccio per il mio karma? Sì, diciamo che se noi andiamo a leggere un filosofo che è alla base del nostro pensiero, che è Platone, e andiamo a leggerci nella Repubblica proprio il momento in cui viene scelta la nuova reincarnazione, noi vediamo che coloro che avevano fatto del bene semplicemente perché volevano avere poi dei vantaggi non sono poi così premiati poi nella nuova reincarnazione. In altre parole, il fare del bene dovrebbe essere un lavoro disinteressato, no? Sentivo anche le altre persone, sì, prima in trasmissione. Tu fai qualcosa perché esiste la nanche che ti spinge, cioè questa necessità universale che ti porta, ti dovrebbe portare a fare del bene. Il problema è che quando noi siamo troppo presi dagli aspetti materiali, che possono essere il potere, il denaro, la notorietà e così via, e facciamo delle cose in funzione di quello, il nostro karma, anche se facciamo delle cose buone, non necessariamente si alleggerisce. È un discorso forse un po' è molto sottile come discorso, però effettivamente corrisponde alla realtà di quella che noi abbiamo verificato poi con lo sviluppo di quella specie, chiamiamolo il pannello di controllo, no? Che è il, sì, tratto karmico, e che ci consente di vedere quali sono le parti che ci portiamo da un'altra vita e le parti invece, e le chance che noi abbiamo, le possibilità che noi abbiamo invece di operare in questa nostra vita. Ecco, perdonami la domanda che è apparentemente stupida, Giampaolo, ma la reincarnazione può essere solo umani con umani o anche no? No, sì, secondo certe visioni orientali, che peraltro a noi interessano relativamente, ci possono essere diciamo delle retrocessioni in un qualche modo, cioè se tu ti sei comportato, ad esempio si dice che chi è stato cattivo con certi animali si rincarni poi in animali per poter riprovare le stesse sofferenze che hanno provocato, quindi c'è sempre una funzione in un certo senso educativa nell'ambito del karma, sì. Però diciamo che questo non è così probabile. Mentre invece è molto ben verificabile attraverso, ad esempio, questo quadro karmico, tratto karmico, come l'abbiamo chiamato noi, la possibilità di vedere quali sono le nostre chance e di vedere da dove noi partiamo. Perché ecco, quindi ci sono degli esercizi, sì, diciamo così, delle prove da fare per riuscire a cercare di avvicinarci a questo tema e a capire cosa potevamo essere. Certo, noi ci siamo riferiti, allora qui bisogna lavorare con le immagini, nel, sì, senso che le immagini sono dei simboli, no? I simboli grafici più semplici che noi conosciamo tutti quanti sono quelli del cruscotto dell'automobile. Se a un certo punto si accende un piccolo distributore rosso, sappiamo che stiamo finendo la benzina. A quel punto tu puoi, di fronte ad un simbolo, avere due comportamenti, uno che è quello di ignorarlo e quindi di andare avanti finché la macchina non si ferma, e l'altro invece è quello di dargli ascolto, certo, al primo distributore, sì, mi fermo e faccio il pieno. Nella nostra vita spesso, non conoscendoli, ecco perché siamo andati alla ricerca proprio delle, sì, pratiche, non li riconosciamo, non li riconosciamo, spesso non li vogliamo riconoscere. Spesso noi, il nostro ego tende a addirittura irrigidirsi di fronte ai segnali e a dire no, io me ne infischio perché riesco ugualmente ad andare avanti anche senza benzina, ma non è così. Certo, tra l'altro guarda, so già gli ascoltatori cosa mi scriveranno, che quando parliamo di questi temi così la discussione si fa sempre particolarmente accesa, ma è molto interessante, per cui in una prossima puntata dove magari andiamo proprio alla ricerca del karma ti coinvolgerò, magari aiuteremo gli ascoltatori a trovarlo. Grazie Gianpaolo Gasparri, buona domenica ancora, grazie per essere stato con noi. Le tracce del karma, come riconoscere nell'attuale incarnazione, Xenia Edizioni, gli aggiornamenti sul traffico tra pochissimo e dopo. E beh, c'è un personaggio che non è forse solo uno, l'abbiamo svegliato, quindi adesso spero che si sia ripreso, l'ho lasciato al telefono apposta per fargli ma quantomeno bere un caffè. Tra pochissimo, dopo il traffico, scoprirete di chi sto parlando. Il riposo del guerriero. Io non so se appunto qual è sia il suo karma, onestamente, quale personaggio possa così identificarsi, ma ne fa talmente tanti. Ciao Arturo Bracchetti, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Questa è la risposta di uno che ho svegliato, ovviamente. Ciao. La voce, sono ancora nella bara. Vabbè, siamo vicini ad Halloween, per cui il personaggio potrebbe anche funzionare. Bela Lugosi dormiva nella bara, no? Sì, di cartone, però era probabilmente, no? Ma no, l'attore che faceva il Dracula, sì, il primo Dracula della storia, si diceva che dormisse in una bara, poi sono quelle cose un po' da PR che tu sai. Che si costruiscono, diciamo. Sì, sì, sì. Allora torna Chuck Si Gira, noi ti coinvolgiamo per questo, perché torni con lo spettacolo, adesso ne parleremo, si partirà da Varese, Bologna, Assisi, Roma, Firenze, Milano e Torino. Intanto voglio dire che oggi regaliamo tre coppie di biglietti per lo spettacolo di Varese, per cui attenti alla domanda che tra poco Arturo vi farà prima di lasciarvi, e i primi tre sms con la risposta corretta si porteranno a casa i due biglietti. Allora, chiaramente oggi Arturo, parlando di karma, carisma e vocazione, ti abbiamo coinvolto perché forse nei tuoi personaggi c'è sempre qualcosa che vorresti essere, no? Beh, sicuramente, perché in ogni attore quando interpreta tanti ruoli deve sempre tirare fuori una parte di sé, no? Un bravo regista è quello che ti apre la porta segreta e ti fa fare magari il serial killer e dice cavolo come lo fa bene, ma perché uno apre quella porta che magari non vorrebbe mai aprire durante la vita o la vita normale e si scatena e poi ritorna diciamo normale, ma è un bello psicodramma quello che l'attore vive. Ecco, forse è anche una fortuna, no? La fortuna di poter essere, infatti, quella cosa in scena e quindi non essere nella vita e quindi averla risolta in qualche modo, no? Ecco. Ma pensa tu tutti quegli attori che hanno per esempio interpretato un ruolo femminile io lo parlo perché ogni sera mi vesto anche da donna, e poi uno, diciamo, il pianeta donna diventa molto più facile da gestire, perché in un certo senso uno lo conosce. D'altronde a Carnevale facciamo spesso così, no? Che ci travestiamo da qualcosa che ci fa paura o che ci è lontano, no? E questo fatto di travestirsi, sai, le tribù primitive si travestivano da leone prima di andare alla caccia al leone, e mimavano un leone un po' goffo, un po' maldestro, e così lo vincevano, no? La rappresentazione. Quindi serve anche a quello il travestimento. Chi avresti voluto essere se non fossi stato Arturo Bracchetti? Orco boia, che domanda. Sinceramente sono contento nella pelle dei miei mille personaggi. Ma questo sicuramente, sai, anche gli italiani sono contenti di te, voglio dire, per quindi ma, lo sai. Ma sì, perché poi insomma mi sento questo Peter Pan un po' ancora a quest'età. Ecco, quindi tu dici, se il personaggio che vorresti essere lui, insomma, che forse sei in qualche modo. Forse, vabbè, quello che vorrei, il personaggio che vorrei essere è quell'Arturo Bracchetti che sta in scena, cioè uno che non invecchia mai, uno che vola, che sparisce, che è un po' tutto, ecco, quello piacerebbe essere, ma in fondo io lo vivo poi attraverso l'illusione del palcoscenico, e forse deve essere contagiosa quella gioia lì, perché poi alla fine si divertono tutti, insomma. Secondo te il tuo è un karma, una vocazione o che cosa? Ma io credo più nella vocazione che nel karma. Il karma mi piace crederci in maniera romantica, non certo. Sono così convinto, perché sono un po' ateo, insomma, penso che Dio sia la più necessaria invenzione dell'uomo, e quindi innecessaria però invenzione, quindi tutto ciò che è un po' religioso lo vedo con grande interesse, perché ho passato 6 anni in seminario e conosco amici che praticano altre religioni, quindi trovo le nostre un po' folcloristiche, quelle orientali un po' più giuste, ecco, un po' più vere. Però il fatto di reincarnarsi, insomma, ho dei dubbi. Credo nel bene ciclico, come diceva. Sì, come dicevamo prima. Sì, sì, il bene, secondo me, chi semina raccoglie, dicevano i nostri nonni, no? E credo proprio che se uno si comporta male, bene o male, o a sé o alla forse la sua famiglia, ma molto vicino, gli ritorna indietro in maniera a volte anche peggio. Ecco, in Chuck si gira, ovviamente tu prendi spunto dai personaggi della televisione e del cinema, soprattutto del cinema, e poi anche parte della televisione. Ci sono dei personaggi che hai interpretato che hai dovuto, immagino, modificare nel corso del tempo, perché il pubblico comincia a non conoscerli più. Quali sono quelli che stanno per essere dimenticati, secondo te, che andrebbero invece recuperati? In maniera scioccante, per esempio Charlie Chaplin, perché se lo ricordano, dice tutti, poi mica vero. Infatti. Liza Minnelli di Cabaret, mia nipote che ha 19 anni, 18 anni, non sapeva chi era. Non sto parlando di Casablanca, che è del 45, insomma, ma io abbiamo scelto sempre dei momenti nei film, anche classici, che sono come delle icone, cioè delle fotografie che rimangono in un inconscio collettivo, cioè anche se nessuno di noi magari ha visto quel film, ecco. Ha visto Frankenstein, sì. Che ne so, nessuno al di sotto dei 16 anni ha visto Frankenstein, ma la testa di Frankenstein la conosce, ecco. Sì. E quindi abbiamo cercato di trovare quei personaggi lì chiave, che sono ancora vivi attraverso i gadget, le pubblicità, le foto, l'utilizzo che lo si fa nella vita poi così di comunicazione. Certo, anche i personaggi cambiano. Io pensavo a Capitan Uncino, che a un certo punto si è trasformato in Jack Sparrow, perché sicuramente è più conosciuto. A un certo punto chiedo al pubblico con un cappello, adesso in chi mi sono trasformato, c'è qualche bambino che mi risponde Jack Sparrow. Ovviamente, perché Capitan Uncino è più lontano dalla sua sì. Realtà. Arturo, ti lascio, perché so che tra l'altro non sei anche all'estero in questo momento, e a Varese il 18-19 ottobre per cominciare la tua tournée italiana. E io ti lascio una domanda da fare agli ascoltatori, perché i primi tre che risponderanno correttamente mandando un messaggio al 349-238-6666 si porteranno a casa una coppia di biglietti per lo spettacolo di Varese, appunto, quindi per persone che possono raggiungere la località. Arturo, che domanda vuoi porre agli ascoltatori? La domanda è molto semplice. Io sono in tournée in questo momento, dove sono in questo momento? Dove sono oggi? Vuoi la nazione o vuoi la città? Cosa vuoi? Cosa devono rispondere? Vorrei la città, se tu se non chiedo troppo. È una città famosa, immagino, giusto? È una città che si trova facilmente, perché se uno adesso con i mezzi che abbiamo, uno puoi sapere dove sono. Ok, quindi basta andare su internet. Andateci e io lo so, ma comunque non ve lo dico. 349-238-6666, se vuoi ritorno a dormire, se no ormai t'ho svegliato e vai con la colazione. No, ormai. Grazie ormai Arturo. Mi sveglio, rimetto sulla maschera, yuppi! E siamo oggi pronti. Pomeriggio, spettacolo alle 3. Con gli anziani bambini. Allora ho fatto bene a svegliarti. Ci vediamo venerdì. Lunedì, settimana parese. Ciao Arturo, buona domenica. Ciao. Mi sto dormendo anch'io. È il momento invece adesso. Aspetta, prima del nostro gastronauta vi dico il numero: 349-238-6666. La domanda di Arturo è: in che città sto facendo spettacoli in questo momento? Immagino che dobbiate andare su internet per scoprirlo, ma potrete scoprirlo. I primi tre messaggi con la risposta corretta riceveranno una copia di biglietti per andare a vedere lo spettacolo di Arturo Brachetti, Chuck si gira, a Varese. Poi vi ricordo che le altre località sono Bologna, Assisi, Roma, Firenze, Milano e Torino. Ascoltate, Uliveto, acqua della salute, aiuta a digerire meglio. Vi presenta il gastronauta. Davide, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, tu che hai vissuto almeno due vite, no? Perché prima facevi una cosa, poi sei diventato il gastronauta. Che vita, chi eri prima? Lo sai? Tu credi nella reincarnazione, nel karma, o no? Ma sai, c'è una caratteristica comune tra l'uno e l'altro, per quello che è difficile distinguere. Perché la mia missione è il viaggio, sempre in movimento, quindi lo ero prima e lo sono adesso. E devo dire che era, per così dire, una profezia che mi aveva fatto mia nonna. Mi aveva detto che io, già da bambino, mi aveva detto tu girerai sempre il mondo, mi diceva sempre. E quindi probabilmente lei aveva capito qual era il mio karma. Vedi come le cose poi tornano in qualche modo. Sì, perché tu hai girato il mondo sia per il tuo mestiere di prima e sia per quello di adesso, no? Sempre fatto, sì, questo. E poi, quindi c'è questa nota comune. Probabilmente il karma è unico, non ci sono due, ce n'era uno che io poi magari ho riversato su due lavori completamente diversi, però diciamo rimane quello, la voglia sempre di girare, di andare in giro e di scoprire, quindi probabilmente questo è il mio karma. Ecco, parliamo della vocazione degli chef invece, nel senso che adesso in un momento in cui sono particolarmente di moda, forse c'è anche la voglia di molti di provare a fare gli chef e cercare di farcela senza magari una vera vocazione, o credi invece che tutti quelli che si stanno cimentando in questo momento davvero sentono la voglia di fare questo mestiere, anche perché è molto impegnativo? Ma come tu sai, in questi casi diciamo che io spero che ci sia la maggioranza perché senta questa vocazione, ma sicuramente ci sono anche gli opportunisti, come sono sempre in tutti i lavori, e quindi sono quelli che probabilmente però alle prime difficoltà si arrendono. Io credo che per arrivare in fondo bisogna avere anche questa passione e bisogna crederci, non solo pensare al dio denaro o alla fama o alla notorietà, anche perché se ne perdono tanti per strada, partono, cominciano a fare gli stage, poi si mettono in proprio e molte volte quando si mettono in proprio oppure vanno da un grande chef e gli casca l'asino perché sicuramente non sono all'altezza. Il problema è che io dico che sono troppo di moda in questo momento gli chef, tant'è vero che il mio slogan è basta con gli chef, torniamo ai cuochi, proprio per dire torniamo alla vera professione, quella professione che è soprattutto non solo vocazione, ma si capisce anche che non è solamente notorietà, è anche sacrificio e applicazione. Ecco, credo che quelli che non hanno questa vocazione, quando c'è da sacrificarsi, da lavorare giorno e notte, oppure da sperimentare, oppure da prendere anche qualche sberlone dalla vita, magari sono i primi che si ritirano. Ecco, invece voglio parlare dell'altro mestiere, Davide, quello di chi classifica e giudica i vini, come nel tuo caso, ma anche i posti dove andare a mangiare. E ormai in questo mondo della comunicazione, no, dell'era e di internet, dove tutti hanno voglia di dire la loro e tutti hanno poca voglia di leggere l'opinione degli altri, purtroppo abbiamo tanti scrittori e pochi lettori. Davide, invece, quali sono secondo te le caratteristiche che devono avere le persone che vogliono intraprendere questa strada, magari solo per interesse, non per mestiere? Quali caratteristiche bisogna avere secondo te? Ma innanzitutto ti faccio una correzione: quando hai detto quelli come te che classificano, io sono partito nel 1983 sul Sole 24 Ore dicendo che io non avrei mai dato voti. Sì. E la mia rubrica si chiama A me mi piace, proprio per un fatto soggettivo. Sì, classificare, ecco, è vero, da voti. In realtà volevo dire, insomma, parlare di un posto, ecco, diciamo così, criticarlo, ma nel senso di valutarlo, ecco. Ecco, sai, anche qui c'è una grossa differenziazione tra il discorso di oggettività e soggettività. Io parto da un presupposto, e sono in pochi, diciamo che il giudizio che noi diamo è soggettivo e quindi non ha un valore assoluto. Ci sono molti critici invece che ritengono che il loro obiettivo, la loro valutazione sia oggettiva e quindi sia indiscutibile. Quindi c'è già questa grande differenziazione di partenza. Ecco, io credo che la prima cosa che bisogna fare è rendersi conto di questo, che non si è giudici sovrani, ma si giudica soggettivamente, perché il gusto e l'olfatto sono due sensi soggettivi. Quindi questa secondo me deve essere la prima valutazione, per quello che come la penso io, è evidente, non tutti la pensano così. L'altra cosa, soldi non si fanno, perché in fondo si finisce per fare il giornalista o il collaboratore. Oggi con le collaborazioni, veramente, visto, diciamo, l'andamento dei giornali, delle riviste, non è che siano molto, molto alti, tant'è vero che la buona parte di chi scrive di queste cose fa anche un altro mestiere o fa anche altre cose, perché altrimenti sarebbe molto difficile. Devo dire che ci vuole la passione, perché sai, è inutile non essere appassionati e poi andare e magari assaggiare o mangiare. Non è che sbaffi una cena o sbaffi due bottiglie di vino, insomma, questo non credo che sia l'obiettivo. Magari ci sarà anche qualcuno, sì, però qualcuno che pensa che sia così, no, ovviamente, certo. Sì, molti pensano che sia così, molti pensano che noi siamo così, siamo dei privilegiati in questo senso, che abbiamo sempre il posto, che non paghiamo, tutta questa serie di vicende. Si prendono delle sole incredibili e le potrei elencare anche con le note spese, con diciamo i conti dei ristoranti. Certo che abbiamo un atteggiamento privilegiato da parte di molti, cioè, ma non di tutti, di alcuni, i quali magari alla fine ti regalano la bottiglia di vino, oppure ti fanno, invece di 5 piatti, te ne fanno pagare 3. Questo sicuramente è vero ed è sacrosanto, per carità, non si può non negare. Però io credo che anche in questo caso sia la passione, perché se tu non hai passione è inutile farlo. Io ho avuto la fortuna probabilmente di nascere in una famiglia di macellatori di carne, di salumifici, roba di questo genere, quindi ho annusato da piccolo il cibo e probabilmente la passione è stata anche questa. Però devo dire che nel tempo la mia passione non è il cibo, è il territorio. Io lo dico sempre che per me il cibo è il mezzo, mentre il fine ultimo è scoprire i territori, i personaggi, le tradizioni e la storia. Quindi ognuno di noi poi riversa su questo mestiere delle proprie passioni. Ci sono anche dei personaggi straordinari in questo mondo, magari Casari che tu non te ne immagini neppure, o non lo so, produttori di salami o quant'altro, che hanno delle storie affascinanti e il loro contatto, le loro esperienze ti trasmettono sicuramente qualcosa. C'è anche questo di importante in questo tipo di mestiere. Non è che tutti sono chef tristellati che tu vedi solamente. Infatti, qui torniamo proprio al primo libro di cui parlavamo oggi, che era di profilo, Ritratto degli italiani lontani dai riflettori. Cioè, il fatto di essere lontani dai riflettori non vuol dire che non si fa molto per gli italiani e per il territorio, anzi, spesso è proprio il contrario. Comunque, se avete curiosità e voglia di cimentarvi, di provare semplicemente per passione, come dice Davide, andate sul sito del Gastronauta, perché c'è sempre la possibilità di proporsi, di mandare i propri commenti ai posti che incontrate o ai vini che assaggiate, perché poi saranno appunto valutati dalla redazione. Giusto? È così, Davide? Come sì, al giusto, solito. Non solo, dico ancora di più, i personaggi mi piacciono, come ti dicevo. Conoscere le storie. Ieri l'altro ho incontrato una ragazza di 30 anni che fa l'alpeggiatrice, è una casala quindi di Gioia Malga. A 30 anni è colta, ha studiato e addirittura ha scritto anche un libricino su questo, sul suo alpeggio, sulla sua storia sull'alpeggio. Ecco, questi sono personaggi straordinari che se tu non giri, non viaggi e non sei curioso non li troverai mai. Non puoi conoscere. Se vai al ristorante semplicemente per fare la critica al 3 stelle, al 2 stelle o al produttore di vino, te le scordi queste storie. Concordo, infatti di solito si parla sempre con chi gestisce o con chi cucina per conoscere la storia che sta al di là di quello che si sta assaggiando. Grazie Davide, buona domenica. Ciao, grazie. Buona domenica a tutti. Ci sono le previsioni del tempo e poi giochiamo ovviamente. Intanto basta con gli sms per quanto riguarda i biglietti per Arturo Bracchetti, perché li abbiamo già dati, nel senso che sono già arrivati molti messaggi e tanti con la risposta giusta, che era Grenoble. Il riposo del guerriero. Le 11.40, pronti a giocare, per voi 1000 euro. Un mistero in 24 minuti. Un mistero da risolvere, ovviamente. La possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. E per arrivare alla soluzione avrete da ascoltare degli indizi musicali. Il primo indizio parte appunto da 1000 euro, ma più indizi ascolterete, più il premio si abbasserà. Il numero per giocare 800 24 00 24. E come sempre, ecco il primo indizio. Ma tu non aspetta la sera, se hai voglia di cantare, scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorata. Che questa è sicuramente la canzone più famosa di Adelmo Buonocore. Questo è il suo nome, Adelmo si chiama, ma Nino è conosciuto come Nino Buonocore, napoletano doc, un grandissima canzone. Questo è anche il primo indizio. Aldo da Lecco. Sì, ciao. Ciao Aldo, eccoci, questo è il primo indizio. Ci sono 1000 euro qui per te, ti stanno aspettando. Vuoi che te li consegni? Forse, cosa vuoi fare? Volevo chiedere un aiuto, dimezzare. Ah, dimezziamo, andiamo a 500 euro, sì. Dopo gli aggiornamenti sul traffico mi dicono, okay. Meglio, perché sono già le 11.44, e allora a dopo. Un mistero in 24 minuti. Allora c'è Aldo D'Alecco che ha chiesto un secondo indizio ed eccolo arrivare da Lucio Battisti. Il fumo di quel treno che era il tuo passato, ora all'orizzonte è già svanito. È un Battisti difficile questo, ma è un album che segna il passaggio dell'abbandono di Mogol, perché i testi di questo album, tutti i testi delle canzoni contenute nell'album, è già, siamo nel 1982, e sono di Velezia, della moglie di Lucio Battisti. E la cosa curiosa è che Lucio Battisti in quel momento abbracciò proprio la musica elettronica, fece dischi soltanto con quella, almeno questo è completamente elettronico. Allora, il secondo indizio per tornare a noi, Aldo, è Lucio Battisti con una canzone intitolata Straniero. Io proverei a dire La difficoltosa compilazione del censimento. Io ci ho provato domenica scorsa, perché sono dopo la radio, sono tornato a casa, okay. E ho detto oggi mi metto lì e compilo il censimento anche per i miei amici. Ho detto dai, facciamo insieme così, no? Intanto ne fai uno, capisci come funziona, il secondo è un po' più facile perché se hai già fatto il primo ce l'avessi fatta, zero, fino alle 9 di sera ho provato, poi mi sono stufato, dico lo farò, tanto sono in una grande città e ho tempo. Grazie Aldo, buona giornata, ciao. Sapete che la risposta giusta la potremo conoscere solo allo scoccare del 24esimo minuto. E intanto c'è qualcuno che così ha commentato delle cose che ha detto Arturo prima, però così sottolineo il fatto che non mente mai, quindi non è vero che dice le persone dello spettacolo per piacere dicono delle cose che fanno comodo, in realtà non lui dice esattamente quello che pensa. Neri da Firenze, buona giornata, ciao. Ciao, buona giornata a tutti. Allora Neri, siamo a 500 euro, due indizi scoperti, che cosa vuoi fare? Dunque, io proverei a dare risposta. Vai Neri. Secondo me è tornata di attualità la lettera della BCE all'Italia con cui ci imponevano i sacrifici necessari alla ristrutturazione del debito. Una bella lettera, grazie Neri. Ciao, buona. Un conoscono e la mia famiglia, e la mia bimba Ginevra. Grazie molto, ciao. Alberto da Torino. Pronto? Ciao Alberto, buongiorno. Siamo ancora a 500 euro. Che cosa vuoi fare, Alberto? Ma voglio provare a dare la soluzione. Anche tu? Sì. Allora aspetta un attimo, sentiamo i due indizi, va, che abbiamo scoperto. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. Straniero. Nino Bonocore con Scrivimi, Lucio Battisti con Straniero. Ecco i due indizi, Alberto. Allora, la notizia è che Sabatini, il general manager della Virtus Bologna, se non sbaglio, ha scritto Obama per l'ingaggio di Kobe Bryant. Grazie Alberto, ciao, buona giornata, buona domenica. Grazie a te e a voi, ciao. Guido da Rovigo. Ciao. Ciao Guido, eccoci qua. Vorrei provare anch'io dalla soluzione. Dai la soluzione e che cosa vuoi dire? Dico, quell'italiano che ha battuto il record mondiale di commenti a un post su Facebook. Ah sì, è vero. Grazie Guido, ciao. Grazie. Buona ciao. Giornata, ciao. Il numero verde 800 24 00 24, Francesco da Livorno. Pronto Stefano, buongiorno. Eccoci qua, Francesco, eccoci, scusami. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Mancano un po' meno i 5 minuti, ma va bene. Allora, Francesco, scusami, allora, cosa vuoi fare? Senti, tanto la risposta penso l'abbia detto Alberto. E invece no, diciamo... la risposta giusta non è ancora stata data, guarda, te lo dico così, con il cuore. Allora, cosa vuoi fare? No, un altro indizio. Eccolo qua. Arriva il terzo indizio. Siamo a 300 euro. Non è facile, però è tutto qui. Non è facile, però è tutto qui. Prima di partire per un lungo viaggio, porta con te la voglia di adattarti. Eccoci qui Francesco, questa è Irene Grandi con Prima di partire per un lungo viaggio. Ecco, questo qui mi ha dato un grande aiuto. Penso che sia la lettera di dimissioni di Marchionne alla Coppindustria. Era la settimana scorsa quella la risposta giusta, Francesco. Era la risposta della settimana scorsa. Mannaggia, io pensavo che avessi capito, perché infatti questo devo dire che questo indizio è molto preciso, aiuta parecchio. Grazie Francesco, mi dispiace. Grazie, buona giornata a te. Stefano dalla provincia di Milano. Eccomi, buongiorno a tutti. Allora, che cosa vogliamo fare? Tre indizi scoperti, 300 euro e la tua risposta o un altro indizio ancora? Abbiamo pochissimi minuti. Preferisco giocare subito, avrei detto la lettera di Sabatini, però mi hai dato un grosso aiuto. A questo punto, dopo l'indizio di Irene Grandi, direi lo pseudo rifiuto della Pellegrini di fare il portabandiera alle prossime Olimpiadi. Ha tutte le ragioni però, perché dovendo gareggiare il giorno dopo è un impegno... È stato molto enfatizzato il suo no, però non è stato molto enfatizzato il perché al suo no. Io ho un'amica ucraina che... gareggiava le Olimpiadi anni fa e fece la stessa cosa, perché il giorno dopo aveva le gare e si è rifiutata, perché non avrebbe mai, anzi è stato proprio l'allenatore a dirgli non puoi assolutamente farlo, per cui massimo della comprensione. Grazie Stefano, grazie a voi. Buona giornata. Massimiliano da Ascoli. Ciao Massimiliano, mi dai la risposta giusta? Ciao, bravo, eccoci lì. Vai. Spero. Allora, la lettera di... il ministro Brunetta. Ce l'avete sta lettera? La lettera non è la lettera. La lettera è il... quando fai una lettera, quale verbo usi, Massimiliano? Scrivere. Eccolo là, è quello l'indizio. Grazie, ciao Massimiliano. Lucio da Torino, buongiorno. Buongiorno. Non so, io lancio subito il premio Nobel per l'economia. No, Lucio, grazie però. Ciao. Buona giornata. Che rabbia, nel senso che non siamo riusciti a portare a casa niente, almeno voi, ma neanch'io, perché i soldi rimangono qui. Allora, la risposta era questa: il Giappone, siccome il 50% in meno di turisti ci sono stati, ha deciso di regalare 10.000 biglietti aerei ai turisti stranieri che verranno a visitare il Giappone. Allora, perché gli indizi? Scrivimi, perché i turisti saranno costretti a scrivere un diario. Questo dovranno fare così. Quindi avranno sì i biglietti, ma dovranno scrivere un diario. E poi straniero, perché gli stranieri prima di partire per un lungo viaggio, perché ovviamente il Giappone è lontano. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Margherita Aina, a Paolo Corleoni in regia e ovviamente grazie a tutti voi. L'appuntamento è per domenica prossima alle 10 con il riposo del guerriero. Buon weekend, anzi buona settimana da Stefano Gallarini.